Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. In primo piano. Una buona giornata da Laura Bettini per questa rassegna stampa insieme fino all'inizio di GR24 e quindi ci lasceremo attorno qualche minuto prima delle 8. Cominciamo subito dal Sole 24 Ore con titolo di apertura commissari per sbloccare 30 miliardi. E poi ancora sulla Prima del Sole si parla di dissesto idrogeologico che è al palo il piano nazionale, solo il 7% delle opere ha progetti esecutivi e ancora Leonardo, volo autonomo per aerei militari e droni, tecnologia all'avanguardia. Il gruppo accelera i piani per lo sviluppo di velivoli senza pilota nel proprio stabilimento di Torino. E a questo è dedicata la fotonotizia aerospazio, questo il tema poi sviluppato da Filomena Greco da Torino. Con il Sole 24 Ore oggi tra l'altro c'è in edicola e ci sarà per diversi giorni a venire, un mese, il volume Smart Working, il Domani è già arrivato, è una raccolta di articoli e riflessioni sul futuro del lavoro nelle analisi appunto del Sole 24 Ore, e tra gli interventi ci sono quelli di Tiziano Treu, di Aldo Bottini, Salvatore Trifirò, Michele Tiraboschi, quindi una visione ad ampio spettro sullo smart working, che è ormai un cambiamento che è entrato nelle nostre vite. Vedremo quanto resterà, ma certamente qualcosa resterà, e appunto con il Sole 24 Ore si può approfondire oggi il tema con questo volume a 12,90 euro. Ecco, per la precisione diamo anche il prezzo di vendita. Dicevamo, sulle 24 ore c'è molto spazio al piano di sesto che è fermo, progetti esecutivi al 7%. C'è questo rapporto che è firmato dagli ex coordinatori D'Angelis e Grassi, che denunciano la paralisi della prevenzione dopo lo scioglimento della struttura Italia Sicura con l'arrivo del governo giallo-verde Conte nel 2018. Insomma, stando ai calcoli che sono stati fatti, davvero c'è un po' da preoccuparsi. Tra l'altro abbiamo sentito questa settimana il rapporto presentato dalla fondazione CMCC, che è il centro che studia i cambiamenti climatici in Italia, ha presentato un'analisi dei rischi del nostro paese per il cambiamento climatico, e il rischio idrogeologico è esattamente uno di quelli più gravi per quanto ci riguarda. Quindi parliamo di colpire, no, il territorio colpito dal cambiamento climatico. Vediamo qualche passaggio, i numeri che sono poi riportati nella tabella confermano una situazione, il vizio dei grandi piani senza progettazioni. I progetti definitivi riguardano opere del piano per 5.164 milioni, il 15,5%, i progetti di fattibilità riguardano opere per 9.755 milioni, il 29,3%, mentre i progetti di prefattibilità ammontano a 15.866 milioni, pari al 47,6% del totale, quindi insomma la disparità è piuttosto evidente nei numeri che vengono riportati appunto sul Sole 24 Ore. Corriere della Sera sceglie un'apertura che invece ci riporta alla campagna elettorale, il voto, la sfida delle piazze. Chiusa la campagna elettorale, i dati dell'Istat sul lavoro, è perso 1 milione di contratti a termine, inserisce anche questa questione il Corriere della Sera. Intanto il centrodestra attacca in Toscana, Zingaretti lotto da solo, ma la partita è aperta. Insomma, è la vigilia delle elezioni, si vota per il referendum e il rinnovo di 6 consigli regionali, e lo si fa mentre l'Istat, appunto, ricordavo, ha perso 1 milione di contratti a termine, cioè segnala la perdita di 1 milione di contratti a termine. Nel centro pagina del Corriere della Sera una fotonotizia ci riporta la proibizione da parte negli Stati Uniti di scaricare alcune app cinesi. L'abbiamo detto nei nostri GR24 più volte, stiamo parlando di TikTok e WeChat. Proibito da domani scaricare TikTok e pagare con l'app WeChat. Il divieto scatta negli Stati Uniti, segue gli ordini esecutivi di Trump firmati ad agosto. È un nuovo capitolo della sfida alla Cina, ma la Casa Bianca entro domani dovrà potrà anche pronunciarsi sull'intesa tra l'americana Oracle e ByteDance, proprietaria del social, e quindi ovviamente la battaglia è aperta. C'è molto spazio sui quotidiani, e ovviamente dedicato ai referendum e al voto in generale che si terrà nel corso di questo fine settimana. C'è spazio ovviamente per i dati anche che riguardano la lotta al coronavirus in Italia. E dal Corriere della Sera vi segnalo un'intervista al ministro Boccia, in particolare in alcuni passaggi in cui Monica Guerzoni gli chiede un po' dell'andamento, della discontinuità, insomma, che c'è tra le regioni. Il caos dei presidenti, chiede Guerzoni, che si smarcano continua. Come pensa di far funzionare il coordinamento tra Stato e regioni? Le linee guida nazionali, risponde il ministro Boccia, che è il titolare degli affari regionali e le autonomie nel governo Conte. Dicevo, le linee guida nazionali vengono rispettate in 19 regioni, anche con ottimi risultati. Poi la ventesima scrive norme che creano caos. Questo è un errore, perché una regione che ritiene di avere problemi aggiuntivi deve chiedere l'intervento della Protezione Civile. Solines in Sardegna non ha collaborato lealmente, chiede allora Guerzoni. È chiaro che la leale collaborazione non c'è stata, tanto che il TAR ha accolto l'impugnativa del governo sui test. E il Piemonte? Azzolina ha perso e ha vinto il buonsenso, come dice Cirio. E adesso saranno le scuole a misurare la febbre agli studenti. No, risponde Boccia, il Piemonte aveva sottoscritto linee guida condivise. Non è che a scuola non vogliono misurare la febbre, ma devi dargli il termoscannere. Infatti il confronto duro c'è stato tra la regione e i dirigenti scolastici, che non possono stare sull'uscio col termometro in mano. Se una regione fa di testa propria, l'impugnazione delle ordinanze resta un'arma anche a tutela delle altre 19. Il compito del governo è coordinare il tavolo, altrimenti è una Babele. E quindi vale per il Dem Bonaccini, che riapre gli stadi? Non riapre gli stadi, propone che entrino solo 1.000 persone, le stesse autorizzate nelle piazze per le manifestazioni pubbliche. Il presidente della FIGC Gravina conosce molto bene la volontà del governo di garantire prima l'apertura delle scuole. Ogni interruttore va riacceso con cautela. E dopo questi passaggi dell'intervista a Francesco Boccia andiamo a Repubblica. Repubblica, incognita virus sul voto. Questo è il titolo di apertura. Domani e lunedì alle urne, le quarantene, i timori per gli anziani potrebbero pesare sull'affluenza. Regionali, ecco le città che decideranno la vittoria in Toscana e Puglia. 5 Stelle, tensione Di Maio Di Battista. E ci ricorda Repubblica che salgono i contagi, ci sono le prime riaperture per gli stadi, ne abbiamo appena detto, paura però in Francia. Francia e Spagna, dove i numeri cominciano di nuovo a salire in maniera vertiginosa e preoccupante. In particolare, ritorno un attimo al Corriere della Sera solo perché ricordo bene dove ho letto questo passaggio. Bene, Francesco Giambertone ne scrive a pagina 13. In Spagna i numeri sono tanti e tali che nell'area di Madrid la presidente della comunità Isabel Díaz Ayuso ha annunciato in una conferenza stampa drammatica l'entrata in vigore di nuove pesanti misure, perché dobbiamo evitare a tutti i costi un nuovo lockdown totale e il disastro economico. La Spagna rimane il paese più in crisi, nelle ultime 2 settimane sono morte 825 persone, in media 60 al giorno. I reparti di rianimazione ospitano già 1.331 dei 10.000 ricoverati per Covid, e quindi si va per chiusure localizzate, ma comunque chiusure. Ritorniamo a Repubblica, spazio ovviamente anche all'inchiesta sui fondi scomparsi per quel che riguarda la Lega. Continua questa indagine di Repubblica, l'inchiesta di Repubblica, Lega, quei soldi girati a staff e lista di Salvini. Un'impennata delle operazioni finanziarie e un fiume di denaro che ingrossa la lista Lega per Salvini Premier, e poi riparte verso i conti dei commercialisti vicini al Carroccio, con una segnalazione di operazioni sospette da parte della Banca d'Italia, depositata dalla Finanza agli atti dell'inchiesta sulla Lombardia Film Commission. Ora la Procura indaga sugli ultimi anni del Carroccio. Questo leggiamo in prima, Sandro De Riccardis ne scrive poi nelle pagine interne, in particolare pagina 13. riguarda invece il tema Mediaset Vivendi, l'articolo di Giovanni Pons che inizia in prima pagina: Discovery corteggia Berlusconi, un tycoon americano piomba come un fulmine nella contesa tutta europea tra Mediaset e Vivendi. Dopo 4 anni di battaglie legali, i manager dei due gruppi stanno ricominciando a dialogare per cercare di trovare una strada che permetta di mettere una pietra tombale sul passato, scrive Pons, che poi però aggiunge che, ben conoscendo questa situazione, John Malone, 79enne ingegnere che dal 73 al 96 è stato numero uno di Telecommunication, un gigante dei servizi via cavo e dei media, e oggi guida il gruppo Discovery, sta cercando di inserirsi nella difficile partita italo-francese. Discovery è già presente in Italia con 13 diversi canali, tra cui Eurosport e La 9, e secondo gli analisti la complementarietà con Mediaset offre un terreno ideale per un matrimonio tra i due gruppi, con il rafforzamento in Italia, Spagna e Germania, dove Mediaset ha il 25% di ProSieben. La copertura europea di Discovery, che può già contare su una TV e un OTT in Polonia, 14 reti nei paesi nordici, la presenza in UK diventerebbe ottimale. A questo punto facciamo una pausa per le informazioni sul traffico e torniamo tra poco. In primo piano. E sceglie di aprire sulla Lega, l'inchiesta sulla Lega, anche La Stampa. Il titolo: Lega svolta nell'inchiesta, soldi allo staff di Salvini. Chiusa la campagna elettorale, decisivi gli scontri nelle regioni, e poi ancora impennata Covid in Italia, quasi 2.000 casi. Francia fuori controllo, siamo a 13.000. Così l'apertura della Stampa, che porta in prima ovviamente anche le questioni Covid, le abbiamo nominate ma ci sono poi tutti gli approfondimenti, e ci porta anche alla guerra delle minigonne a Roma come a Parigi, la battaglia sui diritti in Europa. Il titolo è: La guerra delle minigonne nelle scuole, Roma come Parigi. Mi vesto come voglio, la rivolta delle liceali in una scuola romana dopo il divieto della vicepreside, più che altro un invito a evitarla perché, dice, insomma, attrae gli sguardi degli insegnanti. Poca fiducia anche nei confronti degli insegnanti di questa scuola, secondo me, non solo l'imposizione sulle ragazze, ecco, non fa fare una bellissima figura neanche a loro. Sulla Stampa però c'è anche un approfondimento che riguarda le ormai prossime chiamata alle urne di domani. Gli scrutatori sono in fuga, infatti, per paura del virus. C'è un boom di defezioni. Il comune di Genova recluta volontari su Facebook. In Puglia metà dei nominati dice no. Rischio paralisi nei seggi ospedalieri. Ne scrive Niccolò Carratelli sulla Stampa, appunto, a Genova. Il comune si è visto costretto a mettere un annuncio su Facebook per reclutare scrutatori e presidenti di seggio. Fino a ieri si contavano 855 rinunce tra gli scrutatori su un totale di 2.644 nominati. Circa un terzo ha preferito declinare, un dato nettamente superiore rispetto alle precedenti elezioni. Se non si dovessero trovare i sostituti, la soluzione sarebbe quella di spostare alcuni impiegati comunali nei seggi. Situazione complicata un po' in tutta la Liguria. E così via, ma non è solo una questione ligure, è una questione appunto nazionale, ci spiega poi nello stesso articolo La Stampa. Andiamo al Giornale. Votate contro gli inadeguati, titolone di apertura, intervista a Berlusconi. Il Cavaliere: se il risultato sarà chiaro, il governo dovrà prenderne atto. Palamara svela, Lega nel mirino delle toghe. E qui si compatta invece il titolo su altre questioni. Prima abbiamo visto un po' unite le elezioni al Covid, all'inchiesta Lega. Palamara appunto compare sulla pagina del Giornale, riconducendoci però alla questione Lega. Sallusti intervista il presidente Berlusconi, così appunto si rivolge sempre il direttore del Giornale a Silvio Berlusconi. Presidente, siamo alla vigilia del voto, questa campagna elettorale per lei è stata del tutto anomala, il Covid le ha impedito di viverla in prima persona, come si è sentito? Ho sofferto molto e soffro ancora per gli effetti di questa terribile e insidiosa malattia, il peggio è passato ma sono ancora stanco e spossato. E cosa avrebbe voluto dire agli italiani? Chiede Sallusti. Soprattutto una cosa importante, quella che pare dicesse Platone 2300 anni fa: la punizione per chi non si occupa della cosa pubblica è essere governati da persone inadeguate. scrive così e poi prosegue l'intervista a Silvio Berlusconi. Andiamo a Quotidiano Nazionale. Regioni referendum, la posta è alta, si vota domani e lunedì mattina, PD in trincea, il centrodestra cerca la spallata, in Toscana la madre di tutte le battaglie, dalla Puglia alle Marche guida le sfide decisive e sul taglio dei parlamentari i 5 Stelle si giocano tutto. Così la vede Quotidiano Nazionale, che al centro pagina, come sempre fa, mette a terra insomma le questioni, e qui si parla di autobus stipati, di studenti, nessun controllo sulla capienza all'80%, crescono i contagi, sfiorata quota 2000, 123 morti in Francia. La fotografia però ritrae appunto un autobus pieno e il titolo è "Avanti non c'è posto". E ci si dedica a questo tema poi con l'articolo di Veronica Passeri, "La beffa degli autobus pieni di studenti, l'ira delle aziende dei trasporti, mancano le risorse per sorvegliare e le regioni, non possiamo militarizzare le fermate". E poi c'è una fotografia che ritrae in particolare Bologna, un maxi assembramento in via di Corticella a Bologna, la fermata dell'autobus con decine e decine di studenti che si radunano in attesa del mezzo per tornare a casa. E qui appunto la messa in pratica poi delle cose. Il Fatto Quotidiano, le ragioni del no non stanno in piedi, parla Zagrebelsky, la riforma è puntuale, dice, come hanno chiesto gli elettori nel 2016 e non impedisce di farne altre. I territori, l'idea che i parlamentari debbano portarne gli interessi è roba da ancien régime. Così appunto Gustavo Zagrebelsky sul Fatto Quotidiano, che viene poi intervistato nelle pagine 2 e 3, quindi un'intervista molto ampia, molto ricca, che si trova sul Fatto Quotidiano di oggi. Fatto Quotidiano che prosegue anche qui l'inchiesta sui conti della Lega con movimenti sospetti, scrive, da 14 milioni. Il Messaggero, picco dei contagi, ipotesi zone rosse, aumentano positivi e ricoveri, Palazzo Chigi, monitoriamo, siamo pronti a lockdown locali, l'Istat più alto il conto delle vittime, corsa al vaccino anti-influenzale, ma soprattutto sul Messaggero l'indignazione per Milano e Bergamo, guerra alla capitale, a noi il G20 della sanità, indignazione perché appunto Milano e Bergamo si candidano, la sindaca di Roma non si muove a sufficienza secondo le polemiche appunto che vengono riportate dal Messaggero, ma soprattutto non sarebbero degne Milano e Bergamo di ospitare questo G20 della sanità per come sono state gestite le epidemie. Un gioco di specchi, ovviamente uno può vederla all'opposto, ci risaniamo così. Su Libero, l'Europa ci minaccia, tenetevi i migranti, questo è il titolo di apertura, tutti li difendono, nessuno li vuole, e si approfondisce appunto la questione di come l'Europa si porrà, chi lo sa, davanti a questa sfida dell'asilo, dell'accoglienza, del controllo dei migranti che arrivano. L'Arno della bilancia, il titolo come sempre molto acuto del Manifesto, la fotografia è ovviamente dedicata alla città di Firenze, la Toscana epicentro dello scontro elettorale per le regionali di domani e lunedì, i vertici del centrodestra in piazza Firenze cercano la spallata, il futuro di Salvini nelle mani della Regione Rossa, ma anche Zingaretti rischia. Il candidato del PD Gianni al Manifesto: non si vota sul governo, chi a sinistra mi paragona alla leghista Ceccardi fa come Ponzio Pilato. In prima sul Manifesto anche il record di casi di Covid-19 con l'indice RT che però, si sottolinea, è ancora fermo. Bisognerà aspettare per capire cosa succede tra una settimana circa, quando saranno passati 2 settimane dalla riapertura delle scuole. Avvenire, pane, casa e lavoro, questo è il titolo di apertura, la pandemia sociale può allargarsi, l'allarme Caritas, il peggio deve venire, il volontariato dà risposte ma servono altri interventi. Quasi 2000 positivi, ci ricorda anche qui Avvenire. Leggo l'incipit dell'articolo di Diego Motta: con il Covid-19 sono esplose le grandi contraddizioni del nostro paese, chi era povero lo è diventato rallentato ancora di più. Chi si barcamenava in cerca di una vita dignitosa ha rischiato di sprofondare, si è ristretto il ceto medio, la vecchia borghesia e la forbice delle disuguaglianze si è allargata a dismisura. Contemporaneamente però è venuta alla luce, in modo inaspettato eppure naturale, una miniera nascosta di solidarietà che ha tenuto in piedi il paese. Cibo e casa sono state le priorità assolute di questi 6 mesi, lo saranno ancora. Ma già adesso si intravede il fantasma con cui dovremo convivere in autunno, il lavoro che non c'è più. E con questo primo passaggio dell'articolo di Diego Motta su Avvenire, che ci ricorda la crisi dietro l'angolo, quella appunto del lavoro, ci salutiamo, ci ritroviamo con Si può fare alle 8:30, grazie a Paolo Corleoni in regia. La linea va a GR24, da Laura Bettini, buon ascolto. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.